704 Soufflé di Luisetta. Provatelo, che ne vale la pena. Anzi, vi dirò che sarà giudicato squisito. Latte mezzo litro, zucchero grammi 80, farina grammi 70, burro grammi 50, mandorle dolci grammi 30, uova numero 3, odore di zucchero vanigliato. Sbucciate le mandorle, asciugatele e pestatele fini con una cucchiaiata del detto zucchero. Fate una balsamella col burro, la farina e il latte versato caldo. Prima di levarla dal fuoco, aggiungete le mandorle, lo zucchero e l'odore. Diaccia che sia, uniteci le uova, prima i rossi e poi le chiare montate. Ungete col burro un vassoio che regga il fuoco, versateci il composto e terminate di cuocerlo al forno da campagna. Potrà bastare per 5 o 6 persone.